A bordo campo di Dario Ricci. Catanese, classe 1976, in carriera ha vestito la maglia di Amatori Catania, del Bologna, del Rovigo, del Rugby Roma, del Tolosa, della Lazio, dell'Aquila e ora dal 2007 del Racing Metro Parigi. Di rugby stiamo parlando e gli appassionati avranno già riconosciuto dalle squadre che ho citato il nome del nostro ospite di oggi a bordo campo, ma per renderlo ancora più chiaro basta dire il suo soprannome, e cioè oggi ospite a bordo campo è il barone del rugby italiano. Benvenuto Andrea Lo Cicero. Grazie mille, grazie. Devo dire che non hai dimenticato assolutamente nulla. Tutte le squadre sono state ben elencate. Beh, partiamo col piede giusto. Perché parliamo di rugby con uno dei protagonisti della palla ovale italiana e internazionale, perché il 2011 è anno importantissimo per la squadra azzurra. Abbiamo il Sei Nazioni ormai alle porte e soprattutto i mondiali in Nuova Zelanda. Ma Andrea, direi che a 34 anni anche il tuo 2010 è tutto da incorniciare, no? Dall'inizio fino alla fine, perché proprio in dirittura d'arrivo è arrivato il riconoscimento di Midi Olympique, il bisettimanale del rugby francese, una vera e propria bibbia per gli appassionati del genere, che ti ha nominato miglior pilone sinistro del 2010 del campionato francese. Bel riconoscimento, direi, no? Sì. Devo dire che a 34 anni è penso il riconoscimento più bello che uno possa ricevere. Chiaramente questo mi dà atto e prova di quello del lavoro che sto facendo e che ho sempre fatto. E alla fine mi auguro di essere, per le squadre dove gioco, sempre un riferimento, nonostante l'età, che qualcuno pensava che io fossi è oramai finito, fossi non più idoneo per il livello internazionale. Quindi queste sono le risposte che uno deve dare. Eh sì, risponde sempre il campo, che testimonia come il barone c'è e come, no? Direi risposta che è arrivata prima al Racing Metro, dove tra l'altro sei in compagnia di un bel gruppetto di italiani, tra l'altro sparsi anche per Parigi, adesso ne parliamo, ma anche e soprattutto in azzurro, no? Perché hai convinto il CT Mallet a richiamarti in azzurro e hai riconquistato quella maglia a cui tieni tantissimo. Ma io posso dire che la nazionale a me, come a molti ragazzi, ha regalato tanto, e il fatto di giocare per la propria nazionale, per il proprio paese, è un onore. Quindi vestire la maglia azzurra e combattere per avere la maglia azzurra penso sia, come si dice in Italia, il minimo sindacale. Quindi per quanto mi riguarda io cerco di dare il massimo per il mio club e per la nazionale. Io sono un lavoratore, ho tanta fame e ho tanta paura di deludere qualcuno, il primo è me stesso. Quindi il fatto di essere sempre là a lavorare, a sempre a dimostrare, ad essere sempre tenace, insomma non mollare mai anche se mi distruggo tutto, per me questo è tantissimo. Assolutamente, tra l'altro dicevamo annata decisiva per la nazionale, perché si disputeranno i mondiali in Nuova Zelanda, che dove il rugby, lo sappiamo, è religione, e ci si aspetta un definitivo salto di qualità da questo gruppo, no Andrea? Anche grazie al tuo contributo, con quali prospettive affrontiamo questo 2011 che tra sei nazioni e mondiali darà forse la vera dimensione di quello che vale l'Italia nel mondo della palla ovale? Ma io quello che posso dirvi con molta sincerità, con molta franchezza, è che saranno le mie ultime partite della nazionale e mi auguro di partecipare al mondiale. Quindi lascerò i documenti a casa, lascerò il passaporto a chi di dovere e darò tutto in campo, perché voglio vincere qualcosa e voglio finire la mia carriera in bellezza. Quindi non voglio tornare a casa come tutti gli altri tre mondiali e dire ma se potevamo far questo, ma se potevamo far questo. Io cercherò di fare il massimo per il mio club in primis e poi per la nazionale. Andrea, però se poi facciamo il risultatone magari ci si ripensa pure, no, su questa decisione. Ma Sai, io penso che bisogna sempre dare spazio ai giovani. Chiaro che se poi io sto bene e non c'è la possibilità di trovare giovani che siano all'altezza del livello internazionale, è chiaro, non dico di no, perché comunque potrò sempre raggiungere altri traguardi e dei traguardi mondiali che con individualmente posso arrivare, tipo il fare molte partite per la propria nazionale, quindi dei traguardi che resteranno insomma storici. Quindi per me questo poi sarà sicuramente quella la ciliegina sulla torta, come fece l'Inghilterra per Jason Leonard o l'Australia per Gregan, che lo fece arrivare a 129 caps. È chiaro che mi piacerebbe, però se devo essere realista, è giusto che io mi prefissi degli obiettivi, e il prossimo obiettivo mi piacerebbe il Sei Nazioni e poi eventualmente il Mondiale. Ecco, questo Sei Nazioni, con quali aspettative lo affrontiamo? Perché anche in questo caso bisogna riuscire a dimostrarsi sempre e comunque competitivi con il meglio del rugby europeo, che coincide in gran parte con quanto di meglio c'è al mondo. Il Sei Nazioni è una vetrina importantissima a livello mondiale, e ci sono le sei nazioni più forti al mondo. Perché comunque nel nostro emisfero si fanno delle partite e dei campionati molto lunghi, dove ci sono molti stranieri di altre nazionali che vengono a giocare. Quindi la dimostrazione è che questo campionato è interessante sia dal punto di vista di gioco sia dal punto di vista di intensità. Non dico che gli altri non lo siano, però il nostro dà la dimostrazione che ci sono tanti campioni stranieri. Vedi anche il mio Racing, che ha tanti campioni. Insomma, tra l'altro una bella colonia italiana, no? A Parigi, tra te e l'ex CT Azzurro Berbizier, che è francese ma chiaramente italiano d'adozione alla luce della sua esperienza, Carlo Festuccia, i fratelli Bergamasco, magari ne dimentico anche qualcuno. Ecco, com'è il vostro menage quotidiano a Parigi? Insomma, credo che non ci sia noi, no? No, assolutamente, sì, c'è sempre tempo e modo di scherzare in italiano, di parlare in italiano, però abbiamo la fortuna di aver imparato tutti in maniera dignitosa il francese, quindi è giusto anche rispettare questo paese che ci ospita ed essere degli ottimi esempi, perché abbiamo imparato in fretta il francese per veramente non avere differenze né di lingua né di maniera di pensiero durante il gioco, durante la vita quotidiana. Ma senti, a tavola preferisci un buon vino italiano o i vini francesi ti hanno già conquistato? No, sempre l'italiano, vino italiano, cibo italiano. Bene, quindi Made in Italy 100%. Beh, allora Andrea, anche ottimo ambasciatore dell'Italia, non solo sul campo da rugby ma anche a bordo campo. Beh, dicevamo, un 2011 sicuramente impegnativo, ma c'è anche un sogno che stai coltivando, no? Per un rugbista il sogno olimpico si riproporrà a Rio de Janeiro 2016, quando il rugby ritornerà nella sua versione a 7. Ma Andrea Lo Cicero è così folle, tra virgolette, da sognarlo questo sogno a 5 cerchi anche in un altro sport, vero? Folle lo puoi dire forte e chiaro, anche senza virgolette. Ma devo dire che io ho fatto sempre sport da ragazzo, e la vela è uno dei miei pallini che ho in testa, quindi mi piacerebbe, visto che la vela è presente con molte classi alle Olimpiadi, mi piacerebbe comunque pensare di fare un team e cercare di qualificarmi assieme a me. Piacerebbe lo star olimpico, adesso bisogna vedere se lo presentano come classe olimpica per le prossime Olimpiadi. Beh, ecco, allora da quello che state sentendo in questa breve chiacchierata, Andrea Lo Cicero è ragazzo e campione di parecchi interessi. Uno tra questi che mi ha colpito davvero singolare è anche quello, e leggo da qualche quotidiano che ho sotto mano, di un allevamento per asine nel Lazio, tra l'altro finalizzato non solo alla produzione di prodotti caseari e di latte, ma anche per la pet therapy. Andrea, come abbiamo detto, l'immaginazione non ha confini, ma questa idea come ti è venuta? Ma questa idea è molto semplice. L'asino è un animale che in tempi veramente antichissimi è stato utilizzato e ha dato una mano a tante persone a trasportare anche in tempi di guerra, non solo. È stato un ottimo compagno, ha dato la possibilità a tante persone di potersi salvare bevendo il suo latte. E penso che comunque è un animale che sta andando in via d'estinzione, è un po' come i rugbisti quando finiscono la propria carriera, quindi perché finiscono la propria carriera tutti li dimenticano. Allora ho detto, ma perché io sono un rugbista, posso dare una mano all'asino, può essere l'asino darà una mano a me. E quindi tra l'altro insieme potete dare una mano a qualcun altro, visto questo progetto finalizzato anche alla pet therapy, no? Esattamente, quindi insomma cercherò di, da un lato negativo, trovare tutti i lati positivi del mio fine carriera, del fine carriera dell'asino, che cercherò di aiutarlo a vivere in maniera molto tranquilla al pascolo e in un'azienda agricola che sto cercando di portare su con tantissimi sacrifici, e quindi tutti i miei averi li sto investendo su questa azienda agricola, quindi cercherò veramente di dare il massimo, e se ci sono dei ragazzini che hanno dei problemi o delle associazioni che vorranno aiutarmi in questo progetto, che ben venga. Beh, allora Andrea Lo Cicero, il nostro augurio da parte di A Bordo Campo è quello di vederti ancora a lungo in campo nella mischia azzurra e magari, perché no, anche nell'area di meta, ma soprattutto il grande in bocca al lupo è per quello che sarà il proseguo della tua carriera, il dopo carriera, insomma poi ti aspettiamo ancora qui per sapere com'è andata, se riesci a portare a termine prima il progetto dell'agricolo oppure quello magari dell'Olimpiade. Senz'altro, sarete i miei sponsor ufficiali per la comunicazione. Perfetto Andrea, allora contaci, in bocca al lupo e a prestissimo in maglia azzurra e sul campo di rugby. Grazie mille, crepi il lupo. Grazie davvero ad Andrea Lo Cicero. A bordo campo. Oggi A Bordo Campo vi porta sui campi della Lega Pro Prima Divisione, quella che fino a qualche stagione fa era la vecchia C1. Era il 12 dicembre, lo scorso 12 dicembre, il Ravenna allo Stadio Benelli conquistava, grazie a una rete di Maggiolini, l'1-0 sul Monza, quindi 3 punti in classifica preziosi da festeggiare con i propri tifosi. E poi che cosa succede al fischio finale? Ce lo racconta il nostro ospite Paolo Sciaccaluga, 39 anni, genovese, capitano del Ravenna. Capitano, che cosa succede al fischio finale? Ma è successo che praticamente un giocatore del Monza, ho notato che stava discutendo abbastanza animamente con alcuni nostri, penso nostri tifosi dai distinti, e ho visto che si era tolto la maglia, era un po' agitato, e mi è venuto così spontaneo cercare di tranquillizzarlo e riportarlo un attimo alla normalità, ecco, senza far niente di particolare. Poi e successivamente è arrivato anche il capitano del Monza, che lo conosco bene, che è Jacopino, e insomma le cose sono tornate un po' a posto, ecco, però in quei momenti lì mi sembrava molto agitato, mi sembrava il minimo cercare di aiutare un ragazzo che mi sembra anche molto giovane, insomma. Allora, Paolo Sciaccaluga ha raccontato l'episodio, omettendo un particolare da grande narratore, il colore della pelle di questo giocatore, perché il giocatore che stava correndo animatamente sotto la curva dei sostenitori ravennati che lo stavano offendendo è, nello specifico, Christopher Wolambo, 23 anni, dal 2009 in Italia, francese, originario del Congo. Congo che è anche la nazionale per cui ha scelto di giocare a calcio, e piccolo particolare, si era tolto la maglia per far vedere a quei tifosi che lo stavano insultando per il colore della sua pelle che la sua pelle era nera. Allora Paolo, a questo punto anche un episodio, il gesto di saggezza di un capitano e poi anche dell'altro, come ricordavi, assume anche un altro significato, no? Perché quelle grida, quelle offese dei tifosi ravennati hanno prodotto anche una sentenza del giudice sportivo. Ma io, ecco, io scusami se ti interrompo, sì. Devo premettere che io non le ho sentite, devo essere sincero, io non ho visto solo lui che era molto agitato. Posso immaginare che ci possa essere stato durante la partita anche qualche qualche insulto, ma non so di che tipo, ecco, non voglio io, però ho visto che lui si è tolto la maglietta, era molto agitato, quindi insomma di sicuro qualcosa c'è stato. Poi, come dicevi giustamente tu, che c'è stata questa ammenda alla società, probabilmente c'è stato qualcosa di grave, ecco. C'erano state questa provocazione nei confronti del sicuramente, giocatore. Sicuramente, sì, qualcosa c'è stato, sicuramente per la reazione che ha avuto il ragazzo, le parole devono essere state pesanti, ecco, tra virgolette, sicuramente non erano parole d'affetto. Tant'è che poi l'arbitro Cifelli di Campobasso, nello scrivere il referto che poi ha portato a una multa per il Ravenna, 500 euro per offese razziste, e quindi evidentemente il referto arbitrale parlava chiaro in quell'occasione, ha però evidenziato anche quello che è stato il tuo gesto, no? Ah sì, questo sono venuto a saperlo anche questo successivamente, in un secondo tempo, sono venuto a conoscenza di questa precisazione scritta dall'arbitro e niente, ecco, e quindi mi ha fatto piacere che l'arbitro abbia notato, ecco, però io in cuor mio non pensavo, ripeto, di aver fatto un gesto così importante, tra virgolette, ecco, forse lo è stato, però come dicevamo prima ormai diamo tutto per scontato, però forse siamo arrivati a un punto che certe cose non vengono neanche più considerate così strane, però lo sono. Tra l'altro, grazie a questo colpo di classe, devo dire, di Cifelli di Campobasso, ricordiamoci il nome di quest'arbitro, sì, perché spesso ce li ricordiamo per le polemiche alimentate dalla Movio. Ma è stato molto bravo anche lui, devo dire, perché l'ha gestita molto bene anche lui dopo, perché si è accorto, ma non ha fatto troppe scene, troppe cose, l'ha gestita nel modo giusto, è stato bravo. Tant'è che grazie al suo referto, tra l'altro, il Ravenna ha avuto proprio uno sconto sull'ammenda, proprio perché il tuo abbraccio a Wollenbo è stato registrato dall'arbitro e quindi, diciamo, la sanzione è stata mitigata, no? Sì. Sono venuto a conoscenza anch'io di questo particolare. Beh, insomma, la società sarà contenta, dai, gli ho fatto risparmiare un po' di soldi, di tempi. Certo, fa sicuramente comodo. Devo dire, Paolo Sciaccaluga, che poi la storia ha dei percorsi veramente particolari, perché sì, di un episodio al contrario, in cui tu eri stato inizialmente accusato di offese razziste nei confronti di un altro giocatore, eri già stato tuo malgrado protagonista, vero? Sì, era stato protagonista. Raccontaci un po', Ma niente, la partita di precampionato era Ravenna-Modena e praticamente verso la fine della partita abbiamo avuto un diverbio come ce ne sono tanti, diciamo, durante una partita. Ci siamo mandati tutti e due a fare un giro in maniera molto tranquilla, l'arbitro ci ha sentito e ci ha espulso tutti e due. Quindi certo, siamo usciti, ci siamo accompagnati nello spogliatoio, nel sottopassaggio, ci siamo fatti le reciproche scuse, perché insomma era precampionato, era anche abbastanza tranquillo, insomma abbiamo detto che aveva anche un po' esagerato, però insomma pensavamo fosse finita lì. Invece dopo 3-4 giorni ho avuto la piacevole sorpresa di trovarmi due giornate di squalifica, ma la motivazione è stata assurda, perché mi hanno così imputato il fatto di aver rivolto frasi razziste a Diago Raga. Certo, che era il tuo avversario con la maglia del Modena, tu eri militare come oggi nel Ravenna e con cui avevi litigato. Insomma, un giorno santo, un giorno diavolo, no? Sì, per assurdo, però anche quel giorno che ero diavolo, non sono un santo, ma non ero assolutamente un diavolo, perché comunque la cosa assurda è che sono finito sulle prime pagine di tutti i giornali, Gazzetta, giornali, insomma, chi poteva dare questa notizia, come è normale che sia, la data. E per fortuna lo stesso Diago Raga, quando ha visto questa situazione, questi articoli qui, è stato molto carino, perché mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, se posso fare qualcosa lo faccio volentieri, perché tu non mi hai detto assolutamente niente, ci siamo solo mandati a quel paese tutti e due, però insomma in maniera molto normale. Quindi insomma mi ha scagionato fortunatamente a livello nazionale, e quindi per me quella è stata la cosa più importante. Poi le giornate ovviamente sono rimaste, perché gli arbitri fanno fatica a ritrattare un loro verdetto, però insomma a me la cosa importante era sapere che tutti sapevano che non ero quel diavolo che volevano farmi passare, come non sono un santo adesso, insomma. E senti, Wallenbo lo hai risentito da quella giornata? Vi siete sentiti o cosa vi siete detti? Braga. No, Wallenbo. No, da domenica, no, ma io una volta, ripeto, una volta scesi nel sottopassaggio, pensavo fosse tutto finito, quindi non ci siamo neanche più sentiti, no. Sicuramente al ritorno cambieremo qualche battuta, però domenica era finita così, insomma. E i tuoi tifosi come hanno reagito? I vostri tifosi, i tifosi ravennati, c'è stata qualche reazione? Ma assolutamente no, presumo che loro secondo me non sanno neanche niente, perché comunque non so in quanti abbiano potuto andare proprio sullo specifico a vedere questo particolare, o se l'hanno vissuta come l'ho vissuta io, nel senso che è stato un gesto talmente, secondo me, talmente ovvio e che probabilmente nessuno ci ha fatto più di tanto caso, ecco. Quindi secondo me in tanti non sanno neanche di quello che è successo. E beh, insomma, è proprio la normalità di questo abbraccio che ci ha incuriosito a noi di A Bordo Campo, perché il clima generale, l'atmosfera generale dei nostri stadi a volte rende eroi anche chi semplicemente sceglie di fare quello che la propria coscienza gli detta. Allora, sì. Paolo Sciaccaluga, 39 anni, genovese di Casella, lo dicevamo, ragioniere diplomato, figlio di commercianti, una vita da mediano perché in carriera Mantova, Siena, Crotone, Verona, Pavia e poi dal 2006 Ravenna. Beh, possiamo dire che questo abbraccio forse è la vittoria più bella in carriera, o quantomeno vale la vittoria più bella in carriera, Paolo? Sì, ma sicuramente, ripeto, sono cose che non dovrebbero esistere, insomma, queste situazioni nel campo, però a me è sembrato, ripeto, è sembrato un gesto talmente semplice e normale che tutto questo richiamo mi fa anche un po' vergognare, però ecco, vergognare non nel senso perché l'ho fatto, vergognare perché è assurdo che si dia così tanta importanza a un gesto del genere, però era per me era normale far così, ecco, quindi mi ha fatto solo una gran tenerezza quel ragazzo, che lo vedevo un po' in difficoltà e ci tenevo a consolarlo e basta. Capitano, allora, a nome degli ascoltatori di Radio 24 e di A Bordo Campo in particolare, ti ringrazio per quell'abbraccio e l'occasione propizia per augurare a te e al tuo Ravenna un grandissimo campionato. Chissà mai, grazie, che magari a giugno non vi abbracciate davvero voi in campo per qualcosa di bello. Ma speriamo. È l'augurio più bello che mi puoi fare. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle ore 6.30. Un saluto da Dario Ricci.